Letture di Radio 24. Al Cinéma Paradis di Parigi i sogni diventano realtà. È quel che succede ad Alain Bonnard, il protagonista di Una sera a Parigi, il nuovo romanzo di Nicolas Barrot. Alain è proprietario di un cinema della capitale, il Cinéma Paradis appunto, che sta vivendo un momento di crisi. Fino a quando Alain decide di organizzare ogni mercoledì in seconda serata una rassegna di vecchi film d'amore. La sala torna così a riempirsi e tra gli habitués del mercoledì sera c'è anche una misteriosa ragazza vestita sempre con un cappotto rosso, per la quale Alain perde la testa. Quando ne parla con il suo amico Robert, quest'ultimo si stupisce che dopo averla vista per 4 mesi non abbia ancora avuto il coraggio di chiederle il numero di telefono e gli chiede se tra di loro ci sia una storia oppure no. No, non c'è nulla, perlomeno non nel senso che intendi tu, risposi. Ed era vero. Ma da dicembre viene al secondo spettacolo e ho la sensazione... Ma non lo so nemmeno io. Robert infilò un dadino di formaggio che grondava vinaigrette e con l'altra mano contò i mesi. Dicembre, gennaio, febbraio, marzo, poi mi fulminò con un'occhiataccia. Mi stai dicendo che questa tizia che ti piace viene nel tuo cinema da 4 mesi e tu non le hai neanche rivolto la parola? Viene solo una volta a settimana, il mercoledì, quando c'è la rassegna dei film vecchi. E comunque le ho parlato, le ho detto quello che si dice di solito. Le è piaciuto il film? Che tempo oggi, eh? Vuole lasciare qui l'ombrello? Cose così. Viene con un uomo. Feci cenno di no. È sempre da sola, ma non significa nulla. Passai il dito sul bordo del bicchiere. All'inizio pensavo che fosse sposata perché porta un anello d'oro. Poi però l'ho osservato bene e mi sono accorto che non è una fede, ma un anello normale, con delle roselline d'oro rosso. Ed è bella, mi interruppe il mio amico. Bella bocca, belle gambe, eccetera. Annuii e ripensai alla prima volta che la ragazza con il cappotto rosso si era presentata alla cassa. Continuavo a chiamarla la ragazza, ma era una giovane donna, sui 25 anni, forse 28. Capelli color caramello, lunghi fino alle spalle, pettinati con la riga da una parte. Viso delicato a forma di cuore, su cui si intravedeva qualche minuscola lentiggine qua e là e scintillanti occhi scuri. Sembrava sempre un po' persa, nei pensieri o nel mondo, e aveva l'abitudine di sistemarsi i capelli dietro l'orecchio destro mentre aspettava imbarazzata che le strappassi il biglietto. Ma quando sorrideva, aveva un'aria birichina e il cinema si illuminava. E sì, aveva una bella bocca, tipo Melanie Laurent, hai presente? Melanie Laurent? No, mai sentita. Dai, quella che ha fatto Beginners. Boh, non la conosco. Conosco solo Angelina Jolie. Lei sì che è bella. Gran bel fisico. Ok, ok. Se venissi un po' più spesso al cinema, sapresti di chi parlo. Tra l'altro, entreresti anche gratis. Per l'amor del cielo. Mi addormenterei. Il mio amico adora i film d'azione e quelli sulla mafia. Quindi, tanto per fare un esempio puramente teorico, non correremo mai il pericolo di litigare per l'ultimo biglietto. Allora l'attrice di Bastardi senza gloria, tentai con qualcosa che potesse rientrare nei suoi gusti, quella che dà fuoco al cinema per uccidere i nazisti. Robert smise per un attimo di masticare, poi sollevò le sopracciglia illuminandosi e mi agitò l'indice sotto il naso disegnando piccoli cerchi. Intendi quella che si salva all'inizio? È Melanie Laurent, è la tizia le somiglia. Un po', risposi. Robert si accomodò sulla sedia del bistrò poco adatta a un uomo della sua stazza. Infatti scricchiolò. «Gesù, Gesù, Gesù! Ma come si fa a essere così stupidi?» esclamò in quel suo modo diretto che mi piace tanto. Sopportai i rimproveri. D'altronde volevo il suo consiglio. Ma quando esordì con il tipico «È proprio come...» e attaccò con non so quali formule astrofisiche che sfociavano nella a me ignota costante di Hubble... Non capii più una parola e i miei pensieri andarono per conto loro. L'ho già detto che sono un tipo parecchio riservato. A tal proposito, ci terrei a specificare subito che però non sono noioso. Tutt'altro. Ho una vita interiore piuttosto ricca e una spiccata fantasia. Solo perché un uomo non trascina immediatamente a letto una donna che gli piace, Non significa che sia un perfetto idiota. Al contrario di questi audaci temerari, io vedo molte cose. Non in senso profetico, sia chiaro. Forse ho guardato troppi film, ma da quando ho rilevato il Cinema Paradis, ho notato che adoro studiare le persone e sviluppare le mie teorie. Mi viene naturale. Le storie mi corrono incontro come ad altri i cani. C'è chi viene nel mio cinema solo una volta e chi regolarmente, tanto che mi sembra quasi di conoscerlo. Magari non parlo molto, ma registro tutto. Vendo il biglietto a qualcuno e osservo il suo viso. Colgo la sua storia, i suoi segreti. Ma la persona che rappresenta un vero enigma, la cui storia mi interessa più di ogni altra, che viene da sola e che ogni mercoledì aspetto con il batticuore, è un'altra. La donna con il cappotto rosso siede sempre nella fila 17 e mi chiedo quale segreto nasconda. Muoio dalla curiosità di scoprire la sua storia, ma al tempo stesso ho paura che non vada d'accordo con la mia. È incantevole. E finalmente stasera le parlerò e le inviterò a cena. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Nicolas Barrot, Una sera a Parigi, Feltrinelli, 254 pagine, 15 euro. Letture di Radio 24. Un consigliere della regione Sicilia costa più del doppio rispetto alla media nazionale. La Campania è al 257esimo posto in Europa per competitività sul lavoro. In Calabria il PIL è solo il 65% della media europea, ma ogni consigliere calabrese ci costa 1.548.000 euro. Sono alcune delle anomalie segnalate da Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella in un articolo pubblicato sul Magazine 7 in occasione dell'uscita del loro nuovo libro inchiesta Se muore il Sud. In tempi di spending review, i 90 deputati regionali continuano a incassare mediamente 11.780 euro netti al mese, bonus esclusi, quando un consigliere di una qualunque altra regione arriva a 8.000 o poco più. Perfino gli assessori regionali guadagnano più dei ministri. 9.900 euro al mese contro gli 8.628 imposti da Letta. E intorno alle buste paga c'è tutto il resto. Una macchina così opulenta da fare dell'Assemblea regionale siciliana il palazzo del potere più costoso d'Italia. Lo conferma uno studio per lavoce.info dell'economista Roberto Perotti, dove si dimostra che con i suoi 156 milioni di spese, il parlamentino isolano costa di più di quelli della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna messi insieme. Il Movimento 5 Stelle era uscito trionfante dalle ultime elezioni regionali del 2012, giurando che avrebbe dato battaglia per spazzare via questo squilibrio insultante per tutti i cittadini, ma in particolare per quanti faticano ad arrivare a fine mese. Ma che? Troppe resistenze. I 15 parlamentari grillini hanno potuto solo compiere un gesto simbolico, la restituzione mensile nelle casse regionali di 5.000 euro ciascuno da usare come fondo per il microcredito. Ma la legge per adeguare le indennità, così come deciso dal decreto Monti, non è mai arrivata neppure in aula. Cosa hanno fatto i parlamentari siciliani per meritarsi queste situazioni di privilegio? Perché mai dovrebbero sommare alle indennità già citate un contributo per raggiungere il Parlamento, dunque per la benzina, che vale 7.989 euro annui per chi arriva da fuori provincia di Palermo? E perché mai un deputato regionale che vive a Palermo dovrebbe avere comunque, per andare in ufficio, 3.323 euro in più all'anno? Non bastasse, insiste Pipitone, i presidenti di commissione, sono 8, sommano allo stipendio altri 2.089 euro lordi, così come i 5 segretari del Consiglio di Presidenza. I 3 deputati questore aggiungono 2.924 euro, i 2 vicepresidenti dell'ARS incassano altri 3.244 euro. I presidenti dell'ARS e della Regione hanno un bonus extra di 4.866 euro. E poi ci sono i vicepresidenti di commissione, i segretari, i capigruppo, più, come dicevamo, tutte le spese intorno. Il risultato finale, come spiega lo studio del professor Perotti, è che la media italiana è di 875.000 euro per consigliere, ma il costo di ciascun parlamentare regionale in Sicilia è di 1.735.000 euro. '53 sotto inchiesta in Sardegna, 53 in Campania. Nel 2000 la regione aveva un PIL al 73% della media europea. Nel 2010 è precipitata al 64%, dietro la Martinica, dietro la Tessaglia e la Macedonia, dietro la Boemia meridionale o il distretto polacco di Piekaryslaskie, per non dire dell'indice della competitività regionale nei paesi dell'Unione Europea, 257° posto tra tutte le regioni europee per competitività sul lavoro e all'ultimo in assoluto per il tasso di occupazione femminile, 31,1%. Fossero davvero consci dell'abisso, i deputati regionali dovrebbero pesare ogni euro. Ma che, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, le indagini sui rimborsi hanno scoperto acquisti di giocattoli, gioielli, farmaci, cialde per il caffè, necrologi e perfino la spesa da consegnare e i chewing gum. Quanto alla Calabria, scesa nel 2010 al 65% del PIL medio dei cittadini europei, al di sotto delle isole Réunion al largo del Madagascar, dei polacchi della Bassa Slesia, dei portoghesi delle Azzorre o degli slovacchi occidentali, basti un dato evidenziato da Roberto Perotti. Ogni consigliere calabrese pesa complessivamente sulle casse pubbliche per 1.548.000 euro. Il reddito medio, stando ai dati del Ministero dell'Economia basati sulle dichiarazioni dei redditi, di 108 calabresi. Eppure, spiega ancora Pipitone nella sua inchiesta, la regione ha abbassato sì al minimo lo stipendio, tassabile, che vale oggi 5.100 euro, ma ha alzato il bonus per l'esercito del mandato, esentasse, fino a 6.000 euro, con il risultato che un consigliere calabrese può arrivare così a circa 9.000 euro netti. In un'area dove i giovani, con una disoccupazione aumentata nel 2012 del 60,7%, sono letteralmente alla canna del gas e si chiedono perché mai l'ente pubblico perda tempo in pratiche burocratiche come quella che riguarda l'onorevole Grillo, che con decreto del prefetto di Vibo Valentia è stato autorizzato al cambio del nome da Alfonsino ad Alfonso. Una svolta davvero epocale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, I palazzi del potere più costosi, quelli della casta regionale del Sud, dal Magazine 7 del 6 dicembre. Nata come manifestazione dei sindacati, degli autotrasportatori e degli agricoltori, la protesta dei forconi si è estesa a tutte le categorie dei lavoratori, coinvolgendo anche le aree antagoniste e i centri sociali. Come prevedibile, alcune manifestazioni sono poi sfociate nella violenza. In molte città i negozianti sono stati costretti a chiudere dal popolo dei forconi e non sono mancati episodi che rievocano periodi bui, come è avvenuto a Savona, dove alcuni manifestanti sono entrati in una libreria e hanno minacciato di bruciare tutti i libri. Nel suo editoriale sulla Stampa, Massimo Gramellini si domanda se sia possibile nel nostro paese esprimere l'esasperazione senza ricorrere alla prevaricazione e all'accanimento sui più deboli. Perso il lavoro, una donna di 28 anni si riorganizza l'esistenza e apre un negozio tutto suo tra sacrifici e paure di non farcela. Poi arriva la settimana dei forconi e le cedo la parola. Sono d'accordo con il motivo della protesta, ma non con il modo. Io non posso e non voglio chiudere, e non voglio che qualcuno mi obblighi a pensarla diversamente. Che io sia nel giusto o nel torto, potrò avere il mio pensiero. Oggi sono stata accerchiata da una ventina di uomini davanti al mio negozio. Mi hanno spintonata e fatta cadere, mi hanno urlato che dovevo morire. Ammazzate quella coniglia! Quando mi sono rialzata e mi hanno detto chiudi o ti spacchiamo tutto, ho capito che la mia libertà di scelta era svanita. Le gambe mi tremavano e, come una mamma con il suo bambino, ho fatto la scelta più sicura. Ho chiuso la serranda. E chi veramente dovrebbe essere il bersaglio della protesta sarà a bere un cappuccino con i soldi pubblici. Chissà se esiste, per l'umanità evoluta del XXI secolo, la possibilità di esprimere l'esasperazione senza la prevaricazione e la rabbia senza la violenza vigliacca che si accanisce contro i più deboli. L'unica alternativa plausibile l'hanno offerta domenica scorsa i 3 milioni di votanti delle primarie democratiche, firmando l'ennesima cambiale in bianco alla classe dirigente. Ma è stata l'ultima. Se i politici non la onoreranno in fretta, prendendo consapevolezza dell'emergenza e rinunciando ai loro riti lenti e bizantini, come sempre nella storia, l'ignavia della democrazia avrà prodotto i forconi su cui si isseranno le prossime dittature. E quello che avete ascoltato era Il Buongiorno di Massimo Gramellini, intitolato Serrande e Libertà, dalla Stampa dell'11 dicembre. I mondiali di calcio sono alle porte e in vista dell'arrivo di nuovi potenziali clienti, le prostitute brasiliane frequentano corsi di inglese e si dotano di terminali per farsi pagare col bancomat. La Coppa del Mondo è dietro l'angolo, così come i portafogli dei calciatori stranieri. Nonostante il divieto di certi allenatori ai rapporti sessuali dei giocatori, indeboliscono le gambe, diceva l'ex mister argentino Carlos Bilardo, il fatto è che gli astri del pallone sono tra i maggiori clienti delle prostitute e ora avranno lo scontrino fiscale. Da inizio novembre la Caixa Economica Federal, una delle più note banche statali, è arrivata ad un accordo con la Corporazione dell'Esquillo di Belo Horizonte. Le ragazze potranno farsi pagare con carta di credito o bancomat. Per le riscossioni, la banca doterà ogni prostituta di terminale POS senza fili, pressoché tascabile. La tracciabilità consentirebbe di spiazzare gli intermediari, evitando il pizzo del 20% che incassano locali notturni o agenti di polizia. Anche il cliente ne trarrà vantaggio. Eviterà di girare con il contante in posti insicuri. Cida Vieira, che presiede l'Associazione delle Prostitute di Minas Gerais, è stata la prima a ricevere il POS. La Caixa è l'unica banca a riconoscere la nostra professione senza pregiudizi, si congratula. Sono 800 donne, trans e uomini che offrono sesso a pagamento nella famosa Rua Guaicurus di Belo Horizonte. Per agevolare i rapporti con i clienti stranieri attirati dalla Coppa, l'Istituto di Credito coordina anche lezioni gratuite di inglese con dei docenti volontari. Un centro commerciale presta le aule. Francese, italiano e spagnolo sono gli altri corsi. Ma chi bada alla privacy degli utilizzatori finali? Sulla ricevuta e nei movimenti bancari comparirà la discreta voce «prestazione di servizio». Le lucciole, ora, hanno un nuovo motto. «Gose agora e paghi depois». «Godi adesso e paghi dopo». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mattias Marini? Il Brasile sperimenta card e bancomat per le prostitute dal venerdì di Repubblica del 6 dicembre.